faccio. Io ho l'alimentazione diretta su questa, non ha batterie perché lo sto usando col K, però quelle radio, questi microfoni, se tu li usi con altri tipi di radio che non hanno gli 8 volts o i 6 volts, dipende da radio, non, il circuito di preamplificazione non va, capito? E infatti devi sapere come viene alimentato col K e riprodurla con un alimentatore dai, della stessa potenza, volts e ampere, e sicuramente poi andrà bene ugualmente. Avanti Giulio. Ok, allora, ma penso che ci sia addirittura la predisposizione per la batteria interna, adesso ce lo dirà Claudio, io non l'ho mai aperto, dunque non so com'è dentro, Claudio, c'è la predisposizione per inserire la batteria, vero Claudio? Sì, non devi alimentare niente, fra, assolutamente, c'è dentro il pacco batterie, che chiaramente se tu, ripeto, lo alimenti con una radio Kenwood, una radio Icom, una radio Yaesu, non hai bisogno di mettere le batterie perché è alimentata dalla radio, l'alimentazione la prende dalla radio, ma se tu vai a mettere un 60 su un baracchino, riesci a farlo funzionare anche bene, però devi usare le batterie per poter avere il circuito di preamplificazione attivo. Quindi le batterie, la sede delle batterie già all'interno, se tu togli il tappo c'è la sede delle batterie, che però rimane vuota in questa circostanza, capito? Sì, è predisposto, ma dico, se tu vuoi evitare, sai per esempio che quante batterie ci vanno, non so, due batterie da 1,5 oppure non so, quattro batterie, ti fai il calcolo, ti metti un alimentatore dentro l'apparato e lo alimenti dall'interno dell'apparecchio senza avere queste batterie in giro, capito, che si scaricano, che si, anche se la mia questa è da 9 volts e dura anni e anni. Sì, ma è meglio sempre usare le cose che ci sono già predisposte, fra, perché poi magari sai un picco di tensione in più, rischi di bruciare il circuito di preamplificazione. C'è già la sua sede, non hai nessuna difficoltà, va molto bene. Io l'ho usato qualche volta e va molto bene, capito? Vai Giulio, e mi ha segnato quante li date Giulio con la mantola, 9-10, questo? 9-10 quasi modulati, però se no è 9-5, ma è un segnalone, ha una radio piena, bella, potente, claro, non ce n'è di problema, assolutamente no. No, così per la cronaca, caro Franco, adesso no, io non faccio i nomi, però almeno due persone hanno utilizzato l'MC60 addirittura col PMR, con quel PMR da 20 euro o 30 euro, Franco, sicché ti puoi immaginare, funziona dappertutto. No, poi l'altro giorno c'era forse Fabrizio che stava modificando un 50 e lo stava portando diciamo agli stessi livelli del 60 e ti dico che stavo facendo forte, ti ricordi Claudio? Sì, ce l'ho anche io l'MC50, è solo che funziona perfettamente ma fa un rumore di alternata, infatti proprio Fabrizio le deve dare uno sguardo appena due minuti. Perché io l'ho aperto, non vedo niente, non è che sono capace a metterci le mani, lui ha la tecnica e la bravura di fare queste cose, quindi un'occhiata, ma giusto per capire se c'è qualche filo, magari sta toccando da qualche parte, io non ho visto niente, non lo so. Va bene, l'MC50 è praticamente il microfono originale della Kenwood, perché è sempre Kenwood, però non ha circuito di preamplificazione, se tu lo vedi è uguale all'MC60, non cambia niente, è diverso colore ma non cambia niente, l'estetica è quella, però non ha circuito di preamplificazione, è microfono normale da tavolo, capito? Ma infatti c'è tutta la differenza, si sente tutta, Adesso anche tu, Giulio, stai usando il 60? Sì, io sto usando il 60, ma abbiamo una voce completamente diversa da quella di Claudio, ovviamente. Lui ha la voce più adatta per quel suo tipo di microfono, mela piena, eccetera, eccetera. Io purtroppo nella mia voce non ci sono toni bassi, ho praticamente solo toni alti, dunque non è paragonabile in poche parole. Sì, ma è così, riprendi. No, perché si sentono, chiunque usi il 60 si sente subito, anche dall'aggancio del microfono, e poi la potenza è micidiale. Chi c'è rimasto? Luca Pugli è rientrato. Luca, ci sei? Negativo, avanti Claudio. Io vi sto sempre ascoltando, buonasera a tutti. Ma tu fai una voce da giorno, vabbè, che devi recuperare oggi. No, negativo, voce da giorno. No, ma oggi forse libero. Libero sei oggi, sai? Oh, il lunedì lavorate? Sì, siamo sempre aperti, io confermo, oggi sono libero. Ok, vabbè, ma non hai gara, ti ho compreso. Sei libero ma non hai gara in questo momento, mettiamola su questo piano. Bello quella cosa che è nuovo quell'affare che mi hai mandato, sai? Va benissimo, dai, sono contento. Così ce l'avrai fra un po'. Bene, bene, avanti Franco, salve, io intanto. Sì, sì, il mio vicino di casa, ciao, salve. Saluto il segnalone, forte, sì, qua. In caspita, non ti dico, anche tu arrivi forte qua, siamo troppo vicini, meno male non ci sbatteriamo, ma non è che ruote ce ne sono poche in giro. Non c'è un problema, tanto siamo sempre tutti qua su 10, dunque, non ci sono problemi. Ciao Claudio, riprendi, mi sto ascoltando, dai, che sto facendo qualcosina qua. Ciao, salve, carissimo. E già arrivi bene anche tu, dai, con l'antennina, poi piano piano vediamo cosa si può fare, che hai trovato a rientrare in radio un periodo di merda, scusando il termine, perché sta sempre piovendo, il tempo è brutto. Se fosse nel periodo, insomma, un po' estivo, un colpo di mano, una cosa, un pezzo qui, un pezzo là, l'avremmo sistemata come cristiani con l'antenna, ma è troppo freddo, Io stamattina, ragazzi, sono uscito di casa, c'erano 8 gradi, sono uscito alle 9 a accompagnare mia figlia che dovevo fare delle analisi, e poi niente, ma c'erano 8 gradi, quindi la temperatura è molto bassa la mattina, però insomma dai, la sera non si sta male. Avanti Giulio. Ok, sicuramente sì, figurati, un giorno sì, un giorno no, c'è mia figlia che sale anche più in alto, che arriva proprio in alto in quel paese, la mattina fa il lavoro, ti puoi immaginare, c'è freddo lì, mi ha detto c'è un freddo la mattina specialmente, è una cosa tremenda. L'altro giorno dice c'era tanta di quella nebbia che non si vedeva a 50 centimetri dal naso, per dire, no? Lo so, purtroppo in quella zona è così, Ocla. Aspetta che noi ancora non abbiamo acceso nemmeno il riscaldamento qua, perché sinceramente qui non c'è ancora freddo o diciamo che ti richiede per forza il riscaldamento nella maniera più assoluta, però diciamo che ormai siamo vicino, è solo questione di qualche giorno, poi dovremo accenderlo per forza, ma ancora non abbiamo avuto questa necessità. Vai Franco. Sì, a proposito del riscaldamento, stamattina infatti sono sceso in campagna, però non c'era tutto questo freddo lì a Villa Gorizia, dai, proprio perché l'altro giorno abbiamo collegato il riscaldamento dei miei genitori, dai, è andato in blocco, e pensavo che fosse un problema di di sporcizia, di iniettore, cose varie, e invece cos'è? È un topolino che ha fatto un danno enorme, ci ha mangiato tutti i fili della centralina, quindi abbiamo dovuto ricostruire tutto l'impianto elettrico, abbiamo trovato anche l'inquilino che era proprio sopra, aveva fatto il nido all'interno della caldaia, insomma al caldo se ne stava il topolino, e speriamo, è andato tutto bene, abbiamo fatto il collaudo e la pulizia e via. Avanti Saverio. Sì, no, io vi sto ascoltando, che ora non posso modulare, che sto facendo le cosette qua. Vi ascolto con piacere, riprendo fra poco. Kappa, scusa, me l'ho anche dimenticato. Avanti Claudio. Kappa, Charlie, va bene. Allora fai quello che stai facendo, noi già siamo qua, non c'è problema di niente, dai. Ok. Cosa stavo dicendo? Figurati, io sempre paura, fra, lo sai dove sono, no? Tu sei uno di quelle poche che è venuto qua, quindi lo sai. Io ho sempre il terrore dei topolini, perché purtroppo in campagna ci sono, qualcuno l'ho già pizzicato, perché io ho messo la medicina dietro il cavello, e qualcuno l'ho pizzicato proprio lì. lì dove stava mangiando. Però se quei topolini, che sono talmente piccoli, ma a metà della mia mano proprio, fanno anche senso a vederli. Però sono topolini di campagna che se entrano dentro una macchina te la distruggono. A mia sorella gli aveva distrutto allora la roulotte ed era parcheggiata in un posto appunto dove di roulotte, no? dove c'era il messaggio di Attentino. Distrutta, si è mangiato tutti i materassi, si è mangiato tutti i cuscini, ha speso un patrimonio per rimettere tutto a posto. Sì, sì, fanno un danno immaginabile. Ma tu devi vedere come si è mangiato tutti i cavi, cioè non c'era più plastica, addirittura anche il rame è interrotto anche il rame. E lì sicuramente è entrato dalla porta, ma durante il giorno loro lasciano la porta della caldaia magari un po' aperta per cambiare aria, non so, per entrare un po' d'aria. E lui è entrato e poi si è fatto il nido all'interno, ma si è portato su uno straccio, era enorme, come il tipo della caldaia, ha sollevato lo straccio, c'era lui coricato ed è scappato, l'ha acchiappato con la scarpa e poi l'abbiamo attacchito, dai. Poverino, no, io purtroppo volevo fare perché altrimenti mi distruggono. Io appena sono arrivato qua, che cosa ho fatto, Giulio? Mi avevo sistemato tutti i cavi che ho recuperato, insomma che ho tolto da carbonazzi, fascettati bene, e me li ho appoggiati tutti per terra. E qui io c'ho una stanza, Franco l'ha vista, una stanza grande nel Calvario, che tra l'altro lì esce un mini appartamentino sicuramente col tempo. E li ho messi tutti per terra. Anzi no, aspetta, quelli tutti fascettati che dovevo usare li ho messi sopra un tavolo che c'è. Gli altri, gli spezzoni che non dovevo usare, da buttare via, praticamente se li metto qua, poi li metto dentro un sacco, quando vado a sassi li butto nel cassonetto di competenza, nella plastica insomma. E quando sono andato a prenderli per buttarli via, allora se io ti metto a te a spellare un cavo, c'erano un 2 metri 213 spezzoni così, 1 metro 50 centimetri, se io a te ti metto a spellare un cavo, ma con la macchinetta, quindi con l'attrezzatura giusta, a spellare un 2 metri di 213, tu non lo fai come l'ha fatto il topo. Ha lasciato solo il rame, ma bello, pulito, pulito, pulito. Non c'era manco un pezzo di plastica. Incredibile. Che razza di animale roditore. Non è possibile, guarda. No, ma è la cosa che più mi meraviglia a me, che loro sono capaci di tagliare dei fili addirittura che sono con la corrente elettrica. Ma quando mai non lo prendono nascosta questi animali? O non la sentono? Cos'hanno? I piedi isolati a terra hanno questi. Non è possibile, grazie. E questo che me lo sono chiesto tantissime volte, ma il topo, che è un roditore che si mangia i fili elettrici, eccetera, riesce a sentire la corrente elettrica? Penso di sì, però, Franco. Sì, registrato. Guarda, non so come facciano a non rimanere più secchi, perché qui la caldaia era alimentata, quindi la corrente c'era. Però purtroppo, ripeto, qualcuno l'ha addirittura tranciato di netto, l'ha tagliato, e adesso era tutto rosicchiato. Non so perché le piacciono questi cavi. Dai, facciamo entrare il break, avanti. Allora, buonasera a tutti. Stavo ascoltando, a lui il topo dove lavoravo io si era mangiato i fili del quadrilettro che l'ha fatto prendere fuoco, l'ha fatto fare corto e abbiamo dovuto chiamare i pompieri. E lui che rideva, come detto? Sì, stava sghignassando. Ciao Gianni, avanti con la buonasera. Ehi, dai, buonasera a tutti. Saluto anche a Salvino, ho sentito che quello si ascolta. Purtroppo i topolini, dirti di mettere qualche gatto in campagna non fa, perché ci sono i cani, è un casotto. Già, no, già c'è la medicina, no, non c'è bisogno dei gatti, già li ammazza, perché loro sono molto, molto golosi di queste bustine, poi li cambio settimanalmente, li secchisce, però a volte mi fa anche un po' così. Giulio, questi sono piccolini, sono talmente piccoli che a volte veramente a me mi fa anche senso prenderli e buttarli per la campagna. Ma quando io ho lavorato, tu immaginati che io ho lavorato, e qua c'è Gianni che è un mio carissimo collega, è un suo carissimo amico, quindi ha visto dove lavoravamo. Quando noi eravamo a Canica, all'impianto di depurazione di Canica, dovevi stare anche attento perché ti si tiravano, hai capito? Io ho aperto un quadro elettrico una sera per fare una lettura e mi si è puntato, si è sollevato dritto, ma era quanto un braccio, quelli però sono topi di fogna, quelli sono topi di fogna che vanno a farsi il nido nei quadri elettrici perché sono caldi. A volte va bene, si mettono sotto, non toccano niente, ma a me una volta mi è capitato che sono andato di mattina presto a lavoro, siccome facevo i controlli degli impianti, e c'avevo un impianto in blocco, fermo. Quindi ho detto, ma porca miseria, cosa è successo? Stanotte qualche temporale? Ho chiesto, no, tutto a posto, non ho nessun temporale. Sono andato ad armare il differenziale, pum, scattava. Alla fine ho chiamato l'elettricista, ho detto, vieni, perché qua ci deve essere qualche corto, qualche casino. Come ha aperto il quadro, c'era un topo che era quanto il braccio e si era coricato in mezzo proprio ai selettori del magnetotermico, praticamente del differenziale, no? Si era messo lì in mezzo, quindi aveva fatto corto e aveva fatto un casino di Gesù Cristo, quindi si erano bruciati tutti i fili. Fortunatamente non è, lui è rimasto lì secco, arrostito, perché tra l'altro gli impianti sono tutti a 380, quindi è rimasto stecchito, ma tu lo devi vedere, sembrava un gatto un pochino più piccolo di un gatto grande, una cosa allucinante. Non la temono la corrente, Giulio, non la temono, si buttano sopra per riscaldarsi con i fili caldi. È incredibile, ragazzi, da questo tipo di animali, che razza di cose che combinano. No, non è possibile. E lo so, quelli di campagna sono piccolini, sono topolini di campagna, così chiamati, e per cui sono più piccolini, sono. Ma quelli della fogna, quelli già sono abbastanza grandi, ma veramente grandi, e sono anche più schifosi. Quelli di campagna, bene o male, sono anche bellini, se vogliamo, vedendoli così. Ma quelli della fogna, per carità, fanno veramente schifo, pure riescono a nuotare in mezzo alla melma, in mezzo a tutto, un tipo di animale così, che riesce a sopravvivere in condizioni estreme, ma veramente estreme, eppure riescono ad andare avanti con la loro vita. Avanti, Franco. Sì, anzi, hanno, come si dice, non so come spiegarlo, si controllano uno con l'altro, quindi si passano dei messaggi, cioè se uno muore l'altro non mangia più quel tipo di veleno, e lo trasmettono proprio ai figli. È una cosa impressionante come sono organizzate. Avanti, Gianni. Sì, io quell'impianto, Claudio, lo conosco come le mie tasche. Ci ho camminato su quei vasconi la notte con Antonio, perché andavamo a controllare il livello dell'acqua, tutto quanto. So anche come funziona tutto il quadro, me l'ha fatto vedere Antonio. Ha detto, quando si bloccano i monturi, basta che tu provi il pulsante, se tu vedi che non parte, chiami l'operaio di turno e fai venire a lui. Io so tutto quanto, io ci scendevo quasi ogni notte. Sì, ma infatti te l'ho detto, so che lo conosci perché ci andavi con il mio carissimo amico, ci siamo visti anche da poco. Adesso siamo tutti insieme di nuovo prima di Natale, perché va in pensione un altro ex collega, e quindi mi hanno invitato alla festa della pensione, quindi sarà anche Antonio sicuramente. Molto bene, è così, Giulio, è così. No, beh, quelli piccolini, appunto, ti dico, sono anche curiosi da vedere, però fanno un danno allucinante, quindi sto cercando di eliminarli e ne ho già preso parecchi. Adesso è un po' di giorni che non si vede nessun movimento, non ho visto le bustine che non sono toccate. Come dice Franco, trasmettono tra di loro questa cosa e quindi non si avvicinano, capito? Rimangono nelle loro tane, in lontananza, però la notte notte circolano per cercare da mangiare e trovano la bustina, la morsicano e rimangono secchi, capito? Per cui io ho preso quelle bustine istantanee al 100% proprio di veleno, perché quelle che vendono ai supermercati, diciamo le cose, io le ho prese proprio dove vendono a Predanieda la cosa per i topi, proprio il veleno per i topi. Sono anche molto costose rispetto agli altri bustini. Ho preso una scatola da 10 bustine, costa 11 euro, mentre quelle in bustina costano 3,50 euro, e queste sono molto molto velenose. Infatti sono tutte rinchiuse praticamente in punti strategici, perché io c'ho il cane e non voglio che faccia brutta fine, ma lui no, non ci va lì, perché non riesce a passare dove sono le bustine, capito? Sono dei posti, proprio degli angolini particolari di campagna, dove io so che loro circolano la notte, capito? Tutto qua. Molto bene, avanti Giulio, riprendi e fai girare. Ok, qua. Ma io mi ricordo tantissimi anni fa, cioè in falegnameria da me, dalla parte di dietro c'è un cortile, cioè, e avevo lasciato la finestra aperta, c'era un vasista a cena, no? E avevo lasciato la notte, ma avevo dimenticato la finestra aperta, anche se c'era l'infradiata e c'è tuttora. Beh, durante la notte evidentemente sono entrati dei topi, perché in quel cortile ce n'erano tante. Mi Salveglio già conosce quel posto, sicché sa benissimo che i topi c'erano, no? Allora, che cosa è successo? Io lavorando così, facendo pulizia, ho visto questo piccolo sterco, ma queste cose di topo, come mai? Qua topi non ce ne sono. Ho pensato io, strano, ma come si fa? Ma strano, beh, ho preso dei pezzi di compensato, all'incirca 20x30, 30x30, dei pezzi di tagli che avevo di compensato. Sono andato lì da Mascia, allora c'era Mascia lì in via Pascoli che vendeva dei materiali, e ho comprato dei tubetti di quella colla, l'ho formata su questi pezzi di compensato, avevo messo 5 pezzi di compensato sparsi per terra la sera quando sono andato via, e li ho lasciati con questa colla. Beh, ti dirò che l'indomani, quando sono arrivato, non c'era niente, ho detto, ma vabbè, evidentemente no, mi sono sbagliato, non c'è niente. Prendo, passo la serranda e vado in banca. Vado in banca, quando ritorno, saranno state le 10:30, 11:15, apro la serranda e ti vedo i tupi, tutti quanti vivi, attaccati su questo coso di compensato con la colla, che non sono riusciti a staccarsi. Sono... E c'era allora lì, in quel periodo c'era una graffa di ragazzi che basicava lì in via Cesi, no? E io ho chiamato uno di quei ragazzi e l'ho detto, dai, via a me, e cosa ho fatto? Non si preoccupi, ha preso il compensato, l'ha messo per strada, tu mi avevi questi tupi, a un certo punto mi hanno incendiato uno di questi tupi. E meno male, grazie, che non è successo niente, perché uno è finito sotto una macchina, col rischio di bruciare la macchina, con i giochi di questi ragazzi, ma te lo immagini, Ofra? Sì, mi ricorda qualcosa, questi tipi giocando, questi mi sembra che la macchina l'hanno bruciata davvero qualche anno fa. No, sono dannaggi, questi tupi sono dannaggi. Anche da noi in azienda abbiamo i cavidotti dove loro o sono attratti dalla corrente, non lo so cosa sentono, hanno qualche sesto senso che li attrae, iniziano a rosicchiare e fanno un danno enorme. Noi siamo sempre di lotta, mettendo schiuma nei tubi, nei cavidotti, ma ogni tanto entrano, quindi tagliamo e mettiamo tutto nuovo. È un casino, perché a volte sono cavi che sono chilometri lunghi, e trovare il punto dove è stato rosicchiato è un casino, però purtroppo ci dobbiamo convivere e combattere. Avanti Gianni. Brecco. Registrato il brecco. E poi bisogna mettersi i guanti quando si mette la medicina, perché sentono l'odore dell'uovo. Questo ve l'ha detto quello della squadra antitutti, che non bisogna mai toccare con le mani nude le bustine. Avanti il brecco. Sì, ciao, buonasera, ho sentito Gianni, Giulio, Claudio, Franco, c'è qualche altro? Salveglio, l'ascolto, ciao Roberto. No, ci sono pure io, sono rientrato. 10 pattuglie di polizia qua a Santa Maria di Pisa per seguire una Fiat 1 rubata. Addirittura. Ciao Luca. Fiat 1 addirittura, ciao Robert. Via, gra. 10 pattuglie di municipale. Ciao Robert. Non Fiat punto, ma Fiat 1, figura di due, ancora si trova la Fiat 1. Praticamente l'hanno abbandonata qua nel piazzale, là. Per carità di Dio, per carità. Ciao Robert, buonasera, ben ascoltato. Non è arrivato niente? L'ho chiamato, l'ha spedito venerdì mattina, mi manda la tracciatura, via corriere l'ha spedita, non via posta, ma se è arrivato già arriverà domani mattina. Là. Vi ha detto quale corriere GLS, se GLS te lo porta Luigi, quello che porta il pacchi a te. Non è sicuro se diamo GLS, però metto probabilmente GLS, mi deve dare la tracciatura. Sì, Luigi Ottore te lo porta, vabbè. Avvisami se arriva domani mattina. Va bene, riprendi e fai girare, vai. Ehi, saluto anche a Franco, non so se lo sono, sì, sono salutato. E basta, dai, Saverio, vai, se Saverio vuole entrare perché non l'ho sentito. Vai tu, Franco. Sì, dai, ti rilancio Giulio per i saluti, avanti Giulio. Ok, sì, l'ho salutato innanzitempo a Roberto, per cui... Ciao Roberto, ben arrivato, comunque ti risaluto. Sì, stiamo facendo due chiacchiere così, del più e del meno, Roberto, perché raccontando delle avventure che succedono molto spesso a riguardo della campagna, quei topolini, eccetera, eccetera. Non so se hai seguito il discorso, ma suppongo che hai fatto almeno 5 minuti d'ascolto. Vai, riprendi tu, Roberto, fai girare per chi vuoi, vai. Certo, l'ho sentito. Dillo a Claudio, mi pare che Claudio era presente in macchina di Danilo, è riuscito a entrare nella multipla. Non si sa dove cavolo è entrato questo toppo dentro la macchina dove ci sono le bocchette di aerazione, in un tubo è entrato con la telecamera endoscopica, l'ha inquadrato e vedi gli occhi del toppo che ti guardavano prima di toglierlo. Tu non vedevi cosa ha dovuto fare Danilo, ha disintegrato, ha smontellato tutta la... Forse c'era anche Claudio il giorno, non me lo ricordo. Già c'era, sì, che era nero, era. Ti fanno dei danni, ma adesso con le centraline elettroniche ti mettono in corto qualche cavo, cosa del genere, e ci butti la macchina. Cioè, secondo che macchina ce la butti, perché la centralina costa più della macchina. Sì, oggi con queste elettroniche è un casino. Poi ripeto, secondo me loro sono attratti dalla tensione, dalla corrente, la avvertono, hanno qualche senso sviluppato. Una volta invece nella macchina di mia moglie, era proprio davanti nella presa d'aria, non ha aperto il cofano, c'era questo ammasso di roba e c'erano la mamma con i piccolini addirittura dentro. Era proprio teneri, un colore rosa pallido. Avanti Gianni. No, ma ora stava fermando il tempo la macchina, oppure la usava? È capitato così? No, l'aveva comprata, usata questa macchina, e quindi per sistemarla abbiamo aperto il cofano per vedere un po' la situazione e ci siamo accorti di questo nido. Se me ne raccontura non ci credete. Allora, un sabato sono arrivati tutti i salumi e c'era la commessa che stava sistemando e metteva i cartoni vuoti fuori, io ce li prendevo e li buttavo via. E cosa è successo? Che praticamente se n'è andata, ha detto io ho finito là, e gli ultimi cartoni sono rimasti lì e detto vabbè, li butto lunedì, era già tardi. Fatto sta che lunedì io rientro e vado a prendere i cartoni e si aveva dimenticato una mortadella. Tu dovevi vedere tutti che c'erano dentro, l'ha fatto i figli, la madre. Si è mangiato tutta la saluzzica della mortadella, glielo ho detto, metto tutta la via, non la far vedere se non me la fa pagare. Sì, e poi loro si riproducono in base al mangiare che hanno. Più hanno abbondanza e più figli sfornano. Avanti Claudio. Di nome KK. È una mortadella bismara, hai capito che cosa vuol dire? Siamo mangiando, se non si era un po' questa mortadella la pagava, ma solo di 4 lì. Potevi venderla tipo gruviera, quei buchi. No, la rossica da frutto tutta qua attorno. I topolini piccoli sono cresciuti lì la notte. Oh, scusate il campanello, vi saluto tutti, un abbraccio. Ciao, ci sentiamo. Ciao Fra, un abbraccio, vai giù. Ciao Franco, salutone, ci sentiamo le prossime. Vai Luca. Ciao Franco, saluto anche da parte mia, io sono sempre qua in ascolto. Qualcuno ha un PMR a portata di mano da accendere sul canale 7 a vedere se mi ascolta. Prova, dai, prova, ce l'ho io a portata di mano, dai, se ti sento, prova. Canale 7. Provi lì a schiacciare il portante. Prova, dai, prova, ce l'ho io, accendo. Senti, già ti rispondo, sì e basta, ti dico. No, non interrompo qua, non interrompo qua. Ti dico solamente che se ti sento o meno, è acceso comunque, per cui non c'è problema. Avanti, Roberto. Ciao, sono Salverio e ciao Franco, ben sentito anche per poco. Ci sentiamo alle prossime linee. Vai Gian. Sì, no, io non ne ho di quelle frequenze, no. Le ho disattivate, non mi interessano più. Avanti già. Sì, no, io ho slampato una base, non sto manco più usando, non sto più accendendo, l'ho comprato per nulla. No, io no. Non mi interessa, no, cioè io vado anche in PMR digitale io se voglio, no, non è un problema, c'è tutto, ma non mi interessa entrare in quelle frequenze. Vai Rubi. Ok, Saverio lo sento un po' bassino, Santiago 9, però era un po' di fruscio appresso se portavo. Non so, ha fatto questa antenna, non so. Non lo giaccio. KK, ma infatti sto usando, ho spostato nuovamente il 60 sul 430, non vedo l'ora che arrivi l'altro, così lo metto sul 140 e posso usarli tutti e due, se no ogni volta devo staccare uno e attaccare l'altro. È passato Bracco oggi, gli ho detto che non si fa niente, anche lui era un po' indeciso, lascia stare, gli ho detto si tenga a quello così siete amici come prima, gli ho detto che tu 430 te lo tenevi come muletto di scorta. No, non glielo posso dare, capito? Non glielo do perché ne ho due sotto proprio il consiglio di Fabrizio, ma è pieno perché di quelle radio non si trova più niente, capita che devi fare un lavoro, capito, sai che ne hai un altro e via, però il mio va bene, io sto usando questo, mi va bene, non è che non lo sto usando, va bene, anche se c'è il filtro va bene, non è che non va bene, questo è il 430 numero 2, non è il numero 1, No, va benissimo, ti ascolto perfettamente, niente da dire, infatti va poi alla fine, aggiunto, ma cosa se ne fa, cosa cambia avere il 50 o avere il 440, il 430, tanto la funzionalità di uno è uguale a quella dell'altro, quello è più grande, più comodo da usare, però le stesse cose che fa uno le fa l'altro. Sì, ma infatti non cambia niente, era per fare uno scambio, ma poi alla fine ci ho pensato, però no. A parte il fatto che già l'hai vista, è da vetrina, è nuova, non ha un graffio, non mi interessa, va bene così, ne ho due, poi 757, 140, va bene, non mi interessa. Ok, avanti Giulia, beh, lo senti a Sarri o no? Sì, lo sento anche molto bene, non c'è problema. Stavo scendendo con un gommino, anch'io con un gommino, lo sento benissimo, e beh, la posizione da quella zona verso di me è ottimale, per cui non c'è problema. Sarri, ti sentavo benissimo, già, e poi già te l'ho detto anche lì. Va bene, dai. Tornando per un attimo al discorso dei topi veri, quelli veri, tipo animale, parliamo un attimino di topi d'appartamento. Oh, Robert, forse tu sicuramente questa persona l'avrai conosciuta, anzi ne sono più che certo che l'hai conosciuta. È una persona che commerciava, non ti dico il nome per correttezza, che commerciava le macchine lancia a Sassari. Una volta, siccome io gli ho fatto dei lavori, e un giorno in un viaggio verso Palau mi aveva raccontato che lui era andato in continente e i topi, ma quelli di macchine, i ladri, in poche parole, gli avevano smontato tutta la pancia davanti, compresa tutta la centralina. Dice, questa macchina, dice, è una gran bella macchina, io perché gli avevo detto, questa è la stessa macchina, che è questa? Sì, questa macchina mi ha costato 7 milioni, perché in continente mi hanno smontato tutta la pancia con la centralina completa, per cui ho dovuto rimettere tutto a posto, mi è costata 7 milioni, sto parlando di tanti anni fa, quando c'era ancora la lira, vabbè. Non lo so, prima, allora io conosco uno che è andato a pescare, era appena uscita l'Alfa 156 a Balai, alle Rocette Bianche, ha parcheggiato la macchina, hanno fatto la nottata, e domani mattina, la mattina appena stava, se ne sono andati, vanno a mettere in moto la macchina, un rumore allucinante, nuova, pochi mesi di vita, un rumore allucinante, ne hanno rubato la marmitta dal collettore sino a dietro. Figurati, è possibile. Ma per dire, no, quelli sono altri tipi di truppi, quelli sono anche più pericolosi. Va bene, dai. Avanti Claudio. Già, tu mai l'hai sentito però così, Geometra La Pegna, che lavora a Sempezione, che lavorava al comune di Porto Torres, te lo ricordi? Un uomo alto, brizzolato. Sì. Geometra La Pegna stava, è andato al lavoro e ha lasciato la macchina lì dietro il comune già. Allora, ti ricordi tu che sei più Porto Torres di me? Erano tutte case basse, che si gasivici, poi hanno iniziato a costruire, eccetera, ma ti parlo tanti anni fa, io ero ancora a casa di mia madre, avevo forse 21 o 22 anni, e gli ha raccontato a mia mamma, no, perché era il geometra appunto di famiglia praticamente, e gli ha raccontato a mia mamma che praticamente lui ha lasciato la macchina dietro il comune, no? Il comune. Allora, Porto Torres, se ti ricordi, c'era la fontana, insomma, era diversa la piazza del comune, no? Già te lo ricordi. Insomma, lì c'erano tutte queste case vecchie, Giulio, tutte case. Come può essere Bronx, in via Libio dietro? Lascia la macchina lì e la sera, no? Non mi ricordo cosa è successo, comunque sono andato via con un collega perché dovevamo andare in una campagna, eccetera. Quando è tornato, sono state le 2 o le 3 di notte, ecco, la macchina era su 4 blocchetti proprio da 25, 4 blocchetti, ci mancavano tutte e 4 le ruote. E a Roma lo fanno, ho visto su internet, c'era un parcheggio a Roma e tutte le macchine si hanno fatte. Come è tipo quella quel film su 34, ho visto a poco di cosa, come si chiama? Non mi ricordo, quello, un attore bravissimo, c'era quest'alfa, è andato, si è seduto, non c'erano né sedili, nello sterzo e nel parabrezza lì davanti, vai Roberto. Adesso provo a chiamare io con l'apparecchio, è qua però, qua. Chiama, con l'elicottero ci devi chiamare, non con l'apparecchio. Ma non sei convenuto di salvi. Vabbè, guarda come va. Ciao Roberto, buonasera, un attimino. Oggi sono a casa, ho fatto la pennicchia, la verità mi sono coricato dalle 4, dalle 6 meno 4, e adesso sono qua, dai. Sto provando un apparecchietto, vediamo se mi sentite, aspetta che collego il PL. Prova, facci sentire, facci sognare. Stavo dicendo qua. Ehi, Nara. C'era Mirko che ieri stava raccontando, gli hanno dato per 180 euro, sono rimasto a bocca aperta, gli ha dato un 757 GX2, ha detto nuovo. E un come si chiama? Un oscilloscopio Tektronix LCD, c'ha una righetta nel display e basta. Poi gli hanno dato 3 baracchini e non so che cosa, questo di Orizzano, di un radioamatore. Ehi, già me l'ha detto anche a me, già me l'ha detto. Sì, infatti voleva delle informazioni ieri, perché in pratica ha detto che lo smitter non segna giusto. Ho detto, vabbè, se non segna giusto ci sarà qualche regolazione da fare, stampati il manual service e vedi un po' se c'è qualche cosettina a toccare. Ho detto, il mio è precisissimo, il mio va alla grande, no? Non ci sono problemi. Caspita, 180 euro, allora a me che mi ha venduto il 757 mi ha fregato. Infatti. Vai già. Mi sentite? 1, 2, 3. Sì, io sì. Anch'io. Altro che mi sente? Ora, dici che modulazione brutta che ha, per carità. Mi sta ascoltando dell'altro. No, non pensare che sia così brutta, non è malvagia, è che il segnale da quasi 9 è sceso a 5. Che apparecchio è? Maxicom 7, 1985, cambio. Lo conosco. Ma quello portatile? Sì, color crema, avevo la cuffia, avevo. E l'altro, quello nuovo della valigetta, l'avevo regalato a un caro amico. E c'ho questo qui, senza la valigetta. Già, sentivo Gianni io quando partiva col portatile, tipo quello, forse meglio di quello, non lo so, col portatile, l'antenna in dotazione, quando partiva da Porto Torres di Santiago 9. Quello era della Intec però, quello lì purtroppo ha fatto fine brutta, si è bruciato. Ho recuperato la capsula che era buona e l'ho messa nel microfono, quello che sto usando col 3009. Ma usciva molto bene quello, l'ultima volta me l'hai fatto sentire, ancora era a casa vecchia, ma del radio usciva benissimo quello, Non era brutta la modulazione. No, era che forte, mi mi dicevate che era molto presente come radio. Sì, vabbè, avevo messo gli anni anche, io ce l'avevo un sacco di anni lo stesso, vabbè, comunque tipo quello, SOS. E già funziona, SOS, ma già funziona. Giulio? Sì, sì, mi ero andato un attimino, non so se mi avete chiamato poc'anzi, sono rientrato e appunto poc'anzi stavate parlando che un amico ha preso anche un oscilloscopio eccetera eccetera, ce n'era uno da Portobello alcuni giorni fa, non so se c'è ancora, oscilloscopio, 15 euro lo stavano vendendo, l'ha visto Antonello, Maracuda, e mi ha mandato anche la fotografia, mi ha mandato. Si è trovato lì da Portobello, 15 euro, un oscilloscopio stavano vendendo, di quelli antichi, tipo televisore praticamente. Poche parole, vai Roberto. Mandami la foto giù per curiosità. Io non ce l'ho più la foto, l'ho cancellata. Non ti rimane in memoria del telefono, guarda nel cestino se ti è rimasto. Roberto, tu mi ascolti? Adesso controllo, Roberto. Voi come mi ascoltate con questo apparecchio? Molto più basso sicuramente, ci avrà un paio di watt. Roberto, mi ascolti? Ti sei abbassato un bel segnale, Salve. Santi all'8, sì, adesso, però la radio sarà 4. Un portatile, cos'ha? Un baracchino da casa mutua. Va bene, dai che rimango in curriculum, se ascolto rientro fra un attimo, riprendete voi. Ma Gianfranco, sentito la vetta, qua. Con Claudio si deve essere assentato. Cappa cappa. No, se avete sentito Gianfranco. Da Portobello, però era un altro che c'è che vende questa roba dell'usato, una volta c'erano microfoni, baracchini, io un microfono mi piaceva, poi sono andato a vederlo e era buccato, non mi piaceva per quello, l'hanno buccato con la vite, non l'ho preso per quello, poi se l'aveva preso KP2, l'aveva ricostruito il pezzo e riusciva ben forte. Roberto, lo mando fra un po', dai, non lo so fare io, c'è un necessino, ma faccio fare la mia figlia, te lo mando, te lo faccio fare da lì, ok? Ok, no problem, non ti preoccupare. No, ma quello che c'era a San Marcanda, Claudia, quello viale portatore, te lo ricordo, Gianfranco, si chiama il proprietario, che poi ha chiuso, ha cambiato due o tre punti, di lì c'era una linea geloso, che era quasi a regalo, io non me la sono presa, poi ecco, ci ho pensato, ho detto, ecco, non sapeva neanche il prezzo, sono ritornata, la stava vendendo tutta 80 euro, il trasmettitore, il ricevitore e l'altoparlante. Poi sono ritornato, è passato uno e si è preso il trasmettitore, il ricevitore, c'è il formato del prezzo, ne voleva fare 150 euro. E poi a Capri, da Portobello, gli avevo fatto una Lecraft, gli avevo fatto prendere, mi pare 50 euro, 40 euro. Sono messo a posto e funziona perfettamente bene, un ricevitore di vecchia generazione a vago. Allora, Gianfranco lo conosco, anche un amico mio. Praticamente Gianfranco era il vecchio bulldozer di una volta. Si sentivano quando erano fidanzati con la moglie, parlavano, si davano gli appuntamenti al baracchino e tutto quanto, li conosco molto bene, sia lui che la moglie. Lavorava con Luigi, la ragioniera dell'Electrolux in via Lomberto. Esatto. Praticamente non so se si è riaperto da qualche parte, l'ha avuto in via Poligono, l'ha avuto dietro il rifornitore dove c'era Carboni, l'ha avuto diversi posti, però non so se adesso è riaperto, so che ogni tanto vanno a Cagliari perché abbiamo un amico in comune e vanno insieme a Cagliari al mercatino, mi ha detto questo amico la roba che c'è di baracchini, di roba così, quanti ne vuoi? Sì, tutte le domeniche lo fanno Piazza IN, mi sembra, non ci sono mai andato, ma c'ho amici di Cagliari, me l'hanno detto, non è capitato di andarci, o almeno quando ci sono andato me ne sono dimenticato, sono andato un mesetto fa a Cagliari. No, quello lì ha fatto 4-5 volte il negozio, poi l'ultima volta era in coso, in viale, come si chiama? Via Principessa Maria. È rimasto un pochettino e poi ha chiuso, poi era a Pedania da Vece Mauris, in via Porto Torre. L'ho visto da poco tempo fa, ma non so neanche cosa stava facendo perché ha mollato tutto. Ma c'è quell'altro, quasi, non come si chiama, quello che c'è, sempre in via Porto Torre, che lì c'è Adamo, quello di fuori, di Torino, mi sembra. Quello c'è, ogni tanto porta qualcosa di, però porta roba più ordinata, non è mondezza. Ma ma quello che c'è dove c'è la bicicletta fuori? Gli affari tuoi si chiamano i vostri. No, io via Portottone se non le conosco esattamente quello che c'è per andare, aspetta come si chiama, è quella via, non me lo ricordo, dove c'era la Cobic, il magazzino della Cobic prima. Vabbè, comunque c'è una bicicletta vecchia fuori, c'è scritto Mercatino dell'Usato. Vabbè, te l'ho mandato, guarda che ti è arrivato. E adesso guardo, e mi sembra sia via Sotto Pintore la via. Sì, mi sa che è quella lì, sì, quella via. Sì, già è lui. No, è in gamba, siamo amici con quello lì, l'ho comprato, ma una banca preziosa, non solo di giocattolini, cose anche da arredamento. Ti ha tirato fuori, c'aveva delle belle cose. Prima ce l'aveva dove c'è quella sopraelevata di fronte alla concessionaria Ford, prima di coso, prima di Eurosmith, come si chiama Eurosmith, di, ma che si chiama, Bricoman, che c'è una palestra sotto di un locale enorme, di lì c'aveva un po' di roba interessante, parliamo di roba di valore, non cosettine, perché di quello tiene cose ordinate, dai, non è tipo lo stocchista che c'ha un po' di tutto, e di lì molte volte trovi, 1200 l'avevo comprato di lì dallo stocchista io, da napoletano, da Claudio, poi c'è quell'altro che c'è quasi nuovo di fronte alla piazzetta, ce ne sono 3 o 4 assassini di questi locali. Sì, quello che c'è di fronte alla piazzetta c'è anche il civile che ci lavora. Di fronte alla piazzetta? Sì, più o meno la strada dietro la piazzetta rimane, non di fronte. Ah, sì, ho capito. Beh, Gianfranco abita in via Pascoli, io qualche volta ci siamo visti, non mi ha detto niente che aveva chiuso, anzi mi aveva invitato, ma dimmi se a vedere se c'è qualcosa che ti interessa, che te la porti via, però non mi aveva detto che stava appunto mollando, abitava proprio via Pascoli sopra dove c'era il povero Forbici, e abita ancora lì penso. Lui sì, era ragioniere, aveva detto Lux, poi quando Lux ha chiuso è entrato a tempo determinato a contratto al Banco di Sardegna, al centro lavorazione Ratti in via Umana, quindi lavorava lì, sempre come ragioniere. Poi non gli hanno più rinnovato il contratto e si è inventato questa cosa, proprio sempre lì dove c'è il poligono, la prima dove c'era il gommista lì sotto. La prima volta l'ha aperto lì, poi si è trasferito dove c'era Carboni via del Porto Torres, e poi l'ho perso di vista, non so cosa cacchio abbia combinato. Poi c'è Michele, quello che sopravviene dove sono le piscine, siamo molto amici, lo stesso gli ho comprato tanto, e poi c'è quello la ragnatela in via Cesare Battisti, ma quello c'ha più che altro fumetti, dischi eccetera eccetera. L'avevo portato quando ero via Poligo, l'avevo portato la base magnetica, avevo portato il baracchino, qualche cosa l'avevo portato. Ti ho parlato sopra già. Io gli avevo portato, non gli ho mai portato niente. Però gli avevo mandato delle persone, ci aveva della roba interessante, l'avevano comprata, capito? Però come cosa non gli ho mai dato niente, intanto cosa non dovevo vendere niente. Vediamo un po', Giulia dov'è? Sono qua, sono rientrato, no, mi sono fatto aiutare la mia figlia per mandare quel messaggio che l'ho ripristinato dal cestino, per cui l'ho mandato a Roberto, sicuramente l'avrà già visto. Sì, no, ma una volta sono saltato anch'io da quello, e aveva una di quelle motorette piccoline, basse, una bella moto, no? La stavo vendendo, 200 euro la stavo vendendo, ma era bella, veramente, nuova, per un bambino, per dire, non so, anche di 10 anni, andava benissimo, oltre al fatto che può essere pericolosa, però era bella, veramente bella, e voleva 200 euro per quel motorino lì. Sì, sì, ho visto, però quello è un monitor di trazione, diciamo un pseudo oscilloscopio, perché non ha le sonde, non c'ha tutti i valori, quello lì lo attacchi, ma ti dà la modulazione, tipo quello che faceva la Kenwood. Quella Kenwood è molto bella, però quello non lo trovi, perché se lo fa male non pare altro. Ma se capito ci vado a vederlo, beh, è rapporto bello comunque, vabbè, già lo conosco il padrone, siamo amici tutti e due, il padrone è il tipo che c'è di lì dentro, già ci conosciamo bene, io ho preso un po' di roba, quello Marco, Michele, quello di Coso, di sopra Oviese, a Sergio, il padre di Riccardino, gli ho fatto prendere due baracchini, uno era bellino e più gli ha dato un osmetro, gli ha dato uno di quei amplificatori valvolari, non so se era BV2001, non so, il grosso, e mi pare tutto gli ha dato 150 euro. Ok, io mi sono pentito una volta lì, non mi sono fidato, la verità, c'era l'alimentatore per il K, non mi ricordo come si chiama, forse MS30 o PS30, una cosa del genere, non mi ricordo, e mi sono pentito, non era molto in buone condizioni come schermo, come cosa, però lui aveva detto che funzionava, ma io non mi sono fidato e non l'ho voluto comprare. Mi sembra che mi aveva chiesto 50 euro, mi aveva chiesto, come si chiama Claudio, la sigla è della linea proprio del Kenwood, l'alimentatore? No, il primo che è nato è il PS430, che è della linea del 430, come la colonnina si chiama. L'alimentatore è PS430, la colonnina si chiama SP430, ed è la linea del 430. Quello che ho io è il PS50. Guarda, hai fatto bene a non comprarlo, perché ti dico subito una cosa. Questa voce poi era circolata un po' in radio, ed era andato proprio Antonello Alessio, a vederlo. Siccome lui è amico di quello che sta lì e fa le prove eccetera, è riuscito a farcelo accendere e provare, non alimentava, era bruciato. Sì, 430, adesso me l'hai ricordato, mi ricordo benissimo che era così, 430, sì. E infatti ho visto, ma mi sembra un pochino un po' da scartare questo, voleva 50 euro, ho fatto no, ma è sicuro che funziona? Sì, funziona, lo possiamo comprare, ho fatto non ho io l'attrezzatura, non ce la vuoi l'attrezzatura, glielo dico io come deve fare, per vedere, io vengo con un test, la attacchiamo alla fila, vedo se esce la tensione, se mi dai il voltaggio che deve dare, no, non se ne possono fare queste, ma vabbè, allora sono te. E me ne sono andato per dire no, dunque mi stai dicendo che ho fatto bene a non comprarlo, buona a sapersi. Purtroppo succedono anche queste cose, dai, vediamo un po', avanti che va bene. Ma dove è questo? In che mercatino? Quello vicino a cosa? Vicino alla piazzetta, diciamola così, come si chiama quello che c'è lì in quella strada che poi porta a Di Punti? Di fronte alla piazzetta dove c'è cosa, l'ho capito, quello lì si chiama Quasi Nuovo, quella è una furbacchione, la padrona, la conosco bene, anche io ho comprato, dipende dall'umore, e come si trova, adesso sto lavorando Fabio, vi ricordate Fabio Master? Lasciamo perdere, già sappiamo tutto. Dove c'era l'officina di Gigi Moro, attaccato a Gigi Moro o Robert? Sì, l'ho fatto, dove c'era Gigi Moro, esatto. La carrozzeria Gigi Moro, attaccata alla carrozzeria Gigi Moro. No, le conosco, io ci vado, sono appassionato, perché sono appassionato di robe vintage, cioè cose del genere, le conosco tutti. Poi tutte le domeniche, l'ultima domenica del mese, la prima domenica del mese fanno in Piazza Italia, fanno, sono tutti amici miei, quelli che stanno di dietro, mi conoscono tutti. Poi qualcuno in particolare ci conosciamo anche per altre cose, tipo Michele, eccetera, eccetera. E ci troviamo Mariano, come si chiama? Luciano, il fratello del radioamatore, sono tutte persone che ci conosciamo, ci hanno passione per certe cose, quando dicevo qualcosa dice aspetta la busco, ma io ho preso tante cose. Come si chiama Robè? Dimmi. Come si chiama quella lì, quel portobello lì? Si chiama Quasi Nuovo, però è un bel mutinaggio. Infatti è un mutinaggio che non finisce mai. Sì, è vero. Va bene, dai. Ma dove c'è lì vicino all'altro, quello che c'è lì di fronte al mercato ortofrutticolo, dove c'è il fornitore, c'è un altro lì, lì ci sono degli oggetti, alle volte anche descritti, c'era una pianola l'altra volta, bella, molto bella, nuova, anche quella voleva 200 euro, io la tengo da mani borsi, intanto io non lo so suonare, poi io tra l'altro a casa ho un organo, un farfisa di quelli, tu immaginati un comò di una camera da letto, così grande, che ha doppia piastra, pianola, diciamo, uno c'è pianola e l'altro è piano, poi con tutte le cose da inserire, tra eccetera, che fa la batteria, la chitarra, il violino, insomma tutti gli strumenti ti produce questo tipo di strumento che ho io, è uno strumento che ce l'ho tantissimi anni, è un farfisa, alto come un comò, grande come un comò, doppio piano, uno più in alto e uno più in basso. Va benissimo. Avanti Gianni. Doppia tastiera. Sì, sono buoni quelli, io li conosco. E tu lo sai suonare? Io? Oh, ma per carità, una volta avevo imparato, venivamo nel periodo di estate e suonavo tutte le stelle. Sono quello, poi non mi ha mai appassionato più di tanto, no, ma quando veniva mio cognato, lui già lo sa suonare, lui già era musicista, ed è musicista, lui già lo suona, per cui già va bene. Ok, riprendi Claudio. Claudio si deve essere assentato, Robert riprendi tu. Mi stavi dicendo che ce n'è uno vicino a Coin. Allora, sopra, nel piano superiore, sopra OVS, dove c'è il centro commerciale Luna e Sole, sopra di lì c'è Michele, si chiama Collezionando il negozio, siamo molto amici e quello porta cose carine, interessanti, e ogni tanto può capitare che ti porti anche qualcosa di baracchini, amplificatori, lineari, cose così capita. Detto, quando arrivano, c'è il mio numero, tanto io ho preso tanta roba del campo automobilistico, per lui poi ha roba militare, ha tutte queste cose, c'ha modellismo eccetera. Poi quando entra qualcosa di radio, ho detto avviso, me gli ho fatto prendere qualcosa a Riccardino, al padre, un BV 2001 mi sembra, un altro, un paio di baracchini, ha pagato insomma 150 euro, ma il finale è bello, funzionante. Numero uno è Portobello, per serietà è Portobello, il primo che è nato è Portobello, e ci hanno sempre roba interessante e ti danno roba seria, non mondezza. Quella CB comunque è una roba buona, solo che è caro quello, Claudio, quello sì, quello che prima era in via Pascoli, Gianfranco mi sembra, XCB, quello ha delle cose belle, anche nuove tra l'altro, però è caro, maledetto. Glielo così, non te la tenuta di bada Gianfranco, non me lo fai conoscere, già lo so, io quando sono arrivato in via Pascoli avevamo avuto un mezzo, ma così, giusto perché la nonna abitava nel mio palazzo, e quando ha visto che ne avevo montato una sola di antenna sola manta, ha detto non c'avevo niente, perché era una cosa provvisoria, e subito è andato dalla, perché la nonna ha detto, ah, quel signore nuovo che è venuto nel palazzo ha messo un'antenna grande come quella che ci avevi tu prima, quello mi disturba qui, là, siamo veramente un po' garedo, te già fai da bravo, già lo sai, io non ho molta dimistichezza in queste cose, dite a tua nonna non rompere le palle perché io non sto disturbando nessuno, quindi l'antenna rimane lì perché è casa mia, rimane lì, punto e basta. No, perché nonna, dille a tua nonna che fai la brava e non te lo do rabbì, e abbiamo chiuso il discorso lì. Una volta sono entrato lì, quel negozio aveva una vespetta, aveva, e voleva 1200 euro, una vespetta verniciata nuovo anche tra l'altro, no, una vespa 50 era, 1200 euro voleva, ma è che troppo cara, certo Gianfranco, troppo cara, la stai vendendo, no, no, vabbè, di meno non la posso vendere, vabbè, ciao, ci sentiamo, e me ne sono andato, capito, per cui non mi ricordo cosa avevo comprato, qualche stupidaggine avevo comprato da lui, forse uno strumentino avevo, che poi non ce l'ho più, tra l'altro, non mi ricordo che cosa era, boh, va bene, dai. Avanti Gianni. Giù, ma i prezzi sono quelli, le vendono costando io, una volta che le revisionano tutte, le rifare il motore, ci vuole pazienza, riverniciarle, cambiare tutte le viti, tutto quanto, come fa Fabrizio, che le fa diventare nuove come uscendo dalla fabbrica. È normale che te le fanno pagare. Per dire, a me me la volevano vendere un CB di Portopolo, se me la voleva vendere una, voleva quel tamburino stesso, ma era perfetta, era ben fatta bene, proprio di lusso, molto bella. Lo so, lui mi aveva detto che era stata riverniciata, cioè si vedeva, era verniciata nuovo, questo sì, poi bisogna vedere com'era il motore, non lo so. Per cui, siccome io ce l'ho anche avuta, una Vespa 50, ti dirò che era talmente comoda che tu non hai idea, Gianni, quando dovevo andare a prendere delle misure oppure a fare anche qualche operazione in banca, eccetera, passavo in mezzo al traffico in una maniera proprio bella, veloce, altro che macchina era, con la vespetta andavo dappertutto. Poi eventualmente, adesso mi è venuto in mente anche un altro particolare. Davanti al sopra marciapiede, davanti al magazzino, da me dove io lavoravo, nella vespetta che avevo ci avevo messo l'antenna frusta nera, avevo l'antenna frusta nera nel parafango lì davanti, avevo bucato. Beh, ti dirò Gianni che parlavo da lì, da quel punto lì parlavo con Villanova Monteleone, con l'antenna sul parafango della vespetta, cosa che oggi me lo sogno di arrivarci con l'antenna sul tetto. Prima non c'era inquinamento atmosferico, adesso è diverso, telefonini, questo, quell'altro. Anch'io prima parlavo col baracchino, arrivo a Valghero, da casa di mamma, da Sacro Cuore, arrivo a Valghero. A tutti i tempi, dai, oggi purtroppo a lettere, oggi è carico di segnali e dunque sicuramente si ostacolano anche a vicenda, perlomeno i più forti passano, quelli un pochino più deboli, è chiaro che non possono fare più di tanto, vabbè dai. Roberto, c'è ancora Roberto? Sì, no, sto ascoltando, dai. Il discorso di Giancarlo non è, diciamo, lo faceva come appassionato, molte cose non conosceva neanche i prezzi, infatti molte volte dice guarda che questo qua